24, la storia. Il 20 ottobre del 2011 Muammar Gheddafi viene ucciso dalle truppe dei ribelli nei dintorni di Sirte. I suoi ultimi istanti di vita vengono ripresi da una telecamera e quelle immagini faranno il giro del mondo. La Libia dopo Gheddafi, lo stiamo vedendo in questi giorni, è piombata nel caos. Oggi su Mix 24 torniamo a parlare di Gheddafi e del popolo libico, cercando le radici della situazione attuale di un paese che è legato all'Italia da interessi commerciali, ma anche da una lunga storia di relazioni non sempre facili. E noi partiamo dal deserto del Sirte, dalla fine di Gheddafi e l'inizio della guerra civile in Libia. È finita lì dove tutto era cominciato, nel deserto alle porte di Sirte, dove era nato. Ed è finita male. L'hanno giustiziato, infatti, senza pietà, come d'altronde aveva regnato per 42 anni. Si dice da sempre che il sangue di un tiranno non porti macchia ma onore. Deve essere per questo che gli Shebab di Misurata che l'hanno catturato sembravano così assetati di vendetta. Ma non è stato uno spettacolo di civiltà. Romano Prodi, presidente della Commissione europea dal 99 al 2004, e lo storico Nicola Mastronardi, autore di Gheddafi, la rivoluzione tradita, così commentano quel momento. Purtroppo devo dire che non è inconsueto. Da Saddam Hussein in poi c'è questo spettacolo terribile, ma non è un problema di Gheddafi o del singolo. Qui è la tragedia dei mass media, che ormai non hanno rispetto per nessuno, insomma, no, nemmeno per la morte. L'immagine simbolo del ragazzo con il cappellino del New York Yankees sulla testa che agita la pistola d'oro di Gheddafi, a cui è stato attribuito, non sappiamo quanto in verità, l'assassinio, il colpo finale che ha messo fine alla vita di Gheddafi, è un'immagine che appare come una nemesi storica. Lì c'è concentrata in quella fotografia un po' tutta la parabola della vita gheddafiana, sia dell'uomo Gheddafi e sia del capo di Stato che ha combattuto gli Yankees e probabilmente anche dal mondo occidentale è stato abbattuto. Certo è che Muammar Gheddafi si porta nella tomba non pochi segreti, di cui alcuni inconfessabili. Su patti occulti, intrighi internazionali e affari loschi che hanno coinvolto gruppi armati, stati sovrani e leader famosi di mezzo mondo. E se a parole in molti si sono affrettati a dire «noi non lo volevamo morto», in realtà la fine che ha fatto fa comodo a tutti, amici e nemici. È assolutamente vero, anche se è banale affermarlo. Due esempi su tutti, i segreti legati a Ustica e a Lockerbie. Se Gheddafi fosse sopravvissuto e se processato, avrebbe avuto una platea mondiale per dire alcune cose scomode, anche all'Occidente. E questo da solo può giustificare un'esecuzione come quella. Un destino segnato, dunque. Anche perché a muovere l'orologio della storia e a decidere che per Muammar Gheddafi era scoccata l'ultima ora è stata l'Alleanza Atlantica, i cui stati membri non hanno badato a spese per foraggiare e supportare in tutti i modi quei ribelli di Bengasi che il 17 febbraio del 2011 avevano osato sfidarne l'autorità. Dunque, un paese scomodo con un uomo scomodo al comando. Sentiamo il commento di Lucio Caracciolo, direttore di Limes, e poi il discorso di Gheddafi pronunciato a Tripoli il 21 febbraio del 2011, quando l'onda delle primavere arabe attacca il suo potere. La Libia era un fastidio per molti, se non per tutti, è stata un'occasione per diversi paesi. In realtà solo alcuni paesi della NATO hanno preso parte alle operazioni, quindi è stato un intervento anomalo. Sono le masse che mi difendono e io farò appello ai milioni di libici che mi difenderanno da deserto a deserto. Marceremo assieme per purificare la Libia, palmo a palmo, casa per casa, stanza per stanza, vicolo per vicolo, persona per persona, finché il paese sarà purificato da questa sporcizia. Non possiamo permetterci di perdere la Libia senza nessun motivo. Chi potrebbe permetterselo? Come me ci sono milioni di libici e anche Dio, che mi ha reso vittorioso sui grandi della terra. È stato questo discorso di Gheddafi a dare alle potenze occidentali e poi alla NATO il pretesto per intervenire in Libia e forzare così il destino. Un'ingerenza umanitaria per alcuni versi sospetta, che però ha liberato i libici da una dittatura ingombrante e ormai fuori dal tempo. È normale quando un nemico, perché Gheddafi è sempre stato visto con una certa diffidenza dagli americani, dai francesi soprattutto, e da altri occidentali, è diciamo apparentemente inoffensivo, si regolano alcuni conti antichi. Io penso che molti dittatori stile Gheddafi nel mondo avranno preso buona nota del fatto che lui è stato attaccato dopo che aveva rinunciato nel 2003 al programma nucleare. Se avesse avuto ancora un programma nucleare o addirittura delle armi nucleari, molto probabilmente l'attacco non ci sarebbe stato. Era ancora la voce di Lucio Caracciolo. Gheddafi è stato al potere dal 69 al 2011, dunque per oltre 42 anni. Un potere assoluto, un potere di vita e di morte. Ma chi era veramente Gheddafi? E soprattutto, come ha fatto a diventare uno dei leader internazionali più famosi ma anche più controversi dei nostri tempi? Mix 24. La storia. Muammar Gheddafi è sempre stato un visionario, anche nel modo di vestire. Gli interessava trasmettere dei messaggi, che è poi quello che fanno tutti i grandi leader. La t-shirt con l'effigie di Mandela era un messaggio contro il razzismo. Quella con la foto di Omar al-Mokhtar, un messaggio contro i misfatti coloniali. E così via. Qualcuno in Occidente ha detto che vestiva male, ma non ha capito nulla. Bentornati a Mix 24. Gheddafi dunque è un attore e al tempo stesso un regista scrupoloso di se stesso, in primo luogo nelle interviste che concedeva col contagocce quando voleva lui e secondo un rigido copione. In questa difficile intervista rilasciata a noi a Tripoli il 17 dicembre del 2006, Gheddafi arrivava tranquillo, pieno di sé, mai avrebbe immaginato di poter perdere il potere. Ascoltiamolo. Colonnello, lei è al potere da 35 anni. Non ha mai pensato che per un uomo solo possa essere troppo? Se io fossi al potere sarei già finito da molto tempo. Io non sono al potere. Il potere l'ho consegnato al popolo libico nel 1977. Tutti i libici, uomini e donne, esercitano il potere. Tutti i maggiorenni, uomini e donne, fanno parte dei congressi popolari di base e dei comitati del popolo. Io non esercito il potere. E in 35 anni cosa ha fatto se non ha esercitato il potere? Ho mobilitato il popolo ad esercitare il potere senza rappresentanza, senza governo, senza intermediazioni. E quindi può durare altri 35 anni? Grazie. Dopo quasi un decennio di dure sanzioni, nel 2004 la Libia era rientrata a pieno titolo nella comunità internazionale e il primo gesto di distensione da parte di Gheddafi era stato proprio nei confronti dell'Italia e degli italiani. Colonnello, lei ha abolito la giornata dell'odio contro gli italiani, poi nei giorni scorsi i primi italiani sono tornati. Per lei cosa significa? Guardi, bisogna chiedere l'effetto di questo passo sull'animo dei nostri amici italiani. Noi abbiamo permesso ad un gruppo di loro di visitare la Libia dopo che sono stati espulsi per 35 anni. Siamo noi che vogliamo chiedere a loro, al governo e a tutto il popolo italiano quale impatto abbia avuto questa nostra iniziativa sui nostri amici italiani. Lei li ha incontrati? No, non li ho incontrati. Ma non ho nulla in contrario se vogliono prendere delle foto insieme per ricordo. L'Italia e gli italiani sono sempre stati un'ossessione per Gheddafi. Un'ossessione che lo ha perseguitato per tutti gli anni del suo potere fino alla morte. Il commento dello storico Angelo Del Bocca. Lui aveva degli italiani un ricordo generalmente molto violento, E quando io ho cercato di avere una spiegazione, e lui mi ha detto, ma per esempio io ho chiesto molte volte l'Italia, l'ho chiesto a Andreotti, l'ho chiesto agli altri, perché non sminate tutti i territori che vanno, per esempio tutta la Cirenaica è tutta piena di campi di mine, perché non l'avete fatto? E mi ha slacciato il braccio e mi ha fatto vedere una ferita, e dice, questa è una ferita di una bomba. Una bomba, noi siamo io e due miei cuginetti, eravamo a giocare su questo campo, abbiamo visto un attrezzo, l'abbiamo toccato, il cugino è morto e io sono rimasto ferito. È l'estate del 1970 quando Gheddafi, con una mossa a sorpresa, decide di cacciare dalla Libia tutti gli italiani e di confiscare i loro beni. Il danno è ingente, 1.200 miliardi di lire, e ancor più grande è il dolore per chi ha sempre considerato la Libia la sua patria. Ma Gheddafi è irremovibile. Alle 15.30 oggi è giunta a Napoli la motonave Sicilia con i 200 profughi della Libia imbarcatisi giovedì a Tripoli. 7 bambini ho portato in Italia. In Libia il 21 luglio 70 il Consiglio del Comando della Rivoluzione promulga una legge di danni della comunità italiana. Confisca di tutti i beni immobili e mobili ed espulsione di tutti i membri della comunità. Siamo venuti via con delle casse di legno fatte da noi, con qualche valigia, con i nostri indumenti, quindi non abbiamo portato nient'altro, perché quello c'era permesso di portare, insomma. Operai, agricoltori, artigiani e piccoli imprenditori. Lo dice che il Vangelo, dove non sarete ricevuti, vero? Scuotete anche la polvere dai vostri calzari e andate altrove. Fino ad ora dalla Libia sono sbarcati a Napoli circa 4.000 profughi. Eravamo un po' tutti allo sbando, non sapevamo dove venivamo collocati, in quali campi profughi. Il leader libico, colonnello Muammar Gheddafi, il primo settembre del 70 può annunciare al popolo libico che l'allontanamento degli italiani dalla Libia è concluso. Il 25 febbraio del 2011 a Tripoli Gheddafi così parla al suo popolo. Se serve apriremo i depositi di armi e armeremo il popolo libico e le tribù. Trasformeremo la Libia in un inferno. Sono venuto qui per salutarvi e apprezzo il vostro coraggio. Voglio che loro vedano che io sono nel cuore del popolo. Questo è il popolo che ha fatto chinare la testa all'Italia, la nostra. È la rivoluzione che ha costretto i nostri nemici a baciare la mano al figlio di Omar al-Mukhtar. Questo odio che era, come possiamo dire, si era ormai radicato nella sua memoria e anche nel suo cuore, ebbene salta fuori quando c'è il tradimento di Berlusconi. Berlusconi che lo tradisce, Berlusconi che dopo di aver firmato un accordo manda gli aeroplani a bombardarlo, beh, questo non lo poteva più sopportare. Era la voce dello storico Angelo Del Boca. Nel 70 17.000 italiani sono costretti a lasciare la Libia. Ma non sono gli unici occidentali a finire nel mirino di Gheddafi. Il colonnello, infatti, appena salito al potere, lancia la sua duplice grande sfida all'Occidente. Per farla finita con il colonialismo vecchio e nuovo, Gheddafi sfratta anche le basi militari degli occidentali. Via gli inglesi e via gli americani. Subito dopo è la volta delle compagnie petrolifere, a cui impone royalties ancora più elevate. Chi non ci sta si ritrova con gli impianti nazionalizzati, senza tanti giri di parole. E così, con queste due clamorose decisioni, che Gheddafi si impone all'attenzione internazionale. È il battesimo di fuoco della sua rivoluzione. Il primo settembre del 69 Gheddafi annuncia la rivoluzione. Sentiamo la sua voce e poi il commento degli storici Angelo Del Boca e Nicola Mastronardi. Nel nome di Dio il compassionevole, il misericordioso, o grande popolo libico. D'ora in avanti la Libia sarà considerata una libera repubblica sovrana. Porterà il nome di Repubblica Araba Libica. Il personaggio, mi sono accorto, non era soltanto l'uomo che aveva fatto il colpo di Stato. Era l'uomo che aveva reso la sua patria veramente indipendente. Libertà, socialismo e unità sono i tre principi che hanno ispirato la rivoluzione libica. la libertà del popolo libico contro il neocolonialismo, la libertà dall'influenza del mondo occidentale e dal potere economico delle grandi compagnie petrolifere, è stato spinto al punto che forse è una delle motivazioni per cui Gheddafi è finito. Il socialismo, la redistribuzione delle grandi risorse petrolifere all'interno, sia pur magari sbagliando nei modi, ma lui l'ha realizzata. E la dignità del popolo libico, che è stata per la prima volta, la Libia, dopo il 69, ha un ruolo nella storia. Gheddafi, d'altronde, è figlio dei suoi tempi. È socialista, anticolonialista, terzomondista e panarabo, come il presidente egiziano Gamal Abdel Nasser, a cui si ispira. Il personaggio che lui ascoltava attraverso la radio era proprio Nasser. Nasser era il personaggio straordinario che poi vorrà conoscere dopo il colpo di Stato, eccetera. Nasser lo stimava un po' meno. Nasser aveva capito che era un tipo molto orgoglioso, ma forse non aveva una grande levatura. Quando ci si rivolge al capo di uno Stato, nel mondo occidentale noi diciamo signor Presidente. Lei, Muammar el-Gheddafi, come vuole essere chiamato? Preferisco il grado militare e il cognome, colonnello Gheddafi. È il marzo del 1973 e Gheddafi rilascia la sua prima intervista alla televisione italiana che abbiamo appena sentito. Mix 24, la storia. Ritiene di aver attuato le principali idee della rivoluzione per la quale si trova al potere? Devo dire subito che ci siamo impossessati del potere per realizzare appunto questo cambiamento storico. Non si tratta di un colpo di Stato, ma di una rivoluzione. L'unità araba è il sogno di tutti gli arabi. Molti capi ci hanno rimesso in prestigio. Lei conta di farcela? Non esiste un solo mezzo per realizzare questa unità araba, anche se è tutto il popolo che la vuole. L'unità araba è necessaria. Ed è solo questione di tempo riuscire ad attuarla. Le discordie tra i capi non significano affatto che gli arabi non sono un popolo unico. Anzi, le discordie tra i capi mettono in risalto la volontà unitaria di tutti gli arabi. In tutti i modi, l'unità araba, per realizzarsi, ha bisogno di percorrere la strada che in Italia hanno tracciato a suo tempo Mazzini, Cavour e Garibaldi. Bisogna avere lo spirito, il cervello e le mani per realizzarla. Anche se diceva, io non voglio essere il califfo, il nuovo califfo, l'uomo che prima era a Costantinopoli. Lui aveva questa impressione. Nessun paese arabo da solo poteva commerciare o competere militarmente con gli altri paesi, è vero. Bentornati a Mix24. Esportare la rivoluzione, questo è infatti il sogno di Gheddafi, che con i proventi del petrolio inizia a finanziare patrioti, guerriglie e terroristi di mezzo mondo, dai palestinesi di Arafat all'Ira irlandese, dalle Brigate Rosse italiane all'African National Congress di Nelson Mandela. È così che accresce la sua popolarità, ma anche le preoccupazioni che la comunità internazionale ha su di lui, lo storico Youssef Charik. Gheddafi è un essere umano e quindi può sbagliare. Io, a dire il vero, ero contro la sua idea di esportare la rivoluzione. Ma come ha scritto Oriana Fallaci, Gheddafi voleva essere il profeta del deserto, vale a dire un paladino della libertà e della dignità. Per questo Gheddafi ha voluto sostenere con tutti i mezzi i vari movimenti di liberazione che c'erano in giro per il mondo. In questo modo Gheddafi ha voluto dare il suo contributo alla lotta per la libertà. Aprile 1978, Gheddafi rilascia una nuova intervista. C'è stato qualche giornale italiano che ha scritto che i servizi segreti della Libia sono implicati nel terrorismo in Italia. Come lei pensa che possa essere nata un'idea del genere? Questo fatto non si può separare dalla campagna antisemita capeggiata dai sionisti, insieme al loro alleato, il colonialismo americano. Questa campagna mira a liquidare la questione di una nazione che fa parte di questa terra, cioè del popolo palestinese. Visto che la Jamahiriya è una sostenitrice attiva della lotta del popolo palestinese, che è una lotta giusta, le accuse sollevate contro di essa vanno intese come un anello nella lunga catena del complotto internazionale ordito a largo raggio contro lo stesso popolo palestinese. Lei non pensa che questa affermazione possa anche essere derivata dal giorno in cui lei disse di aiutare il movimento dell'IRA irlandese? La lotta del popolo irlandese è una lotta giusta. Storicamente tutto il mondo sa che l'Irlanda è l'Irlanda e la Bretagna è la Bretagna. Attualmente abbiamo un colonialismo britannico in una parte dell'Irlanda e c'è una lotta che dura da centinaia di anni. Noi crediamo che è giusta e noi appoggiamo sempre le cause giuste. Il denaro che ha dato e le armi che ha distribuito non solo in Africa ma persino all'Ira, insomma dappertutto lui è riuscito a portare queste armi, ebbene, significavano chiaramente che lui doveva essere il personaggio chiave di questa rivolta. Ma il vero problema è che Gheddafi è megalomane e la Libia gli sta troppo stretta. Lo dimostra il suo famoso libro verde, che pubblica nel 1973, fa tradurre in decine di lingue e prova a spacciare come la soluzione a tutti i problemi dell'umanità. Non convince nessuno, ma lui non demorde. Io un dato momento gli ho posto una domanda che era molto provocatoria e gli ho detto: ma lei è convinto che il Libro Verde abbia fatto breccia qui in Libia, ha avuto successo? E lui non ha avuto esitazioni, proprio si vede che la risposta l'aveva già sulla punta della lingua e mi ha detto: no, non è andata così. La Libia non è un paese verde, come io speravo, è ancora un paese nero. Questo nero vuol dire fosco, cioè che non aveva le luci che impensava lui, eccetera. Qual è la caratteristica che distingue il socialismo che lei propugna nel mondo arabo? Il socialismo non ha un solo indirizzo. Noi crediamo in un'unica forma di socialismo, che ha le sue radici nel Corano. Un socialismo valido non solo per i paesi del terzo mondo, ma anche per quelli cosiddetti capitalisti. Gheddafi annuncia la nascita della Jamahiriya libica socialista e l'attuazione delle idee già esposte nel suo libro verde. Con il potere che passa nelle mani dei cosiddetti comitati popolari e l'instaurazione di quello che Gheddafi chiama lo Stato delle masse. Dovrebbe essere il suo trionfo e invece l'inizio della sua fine. Youssef Chakir, storico. L'idea non era sbagliata, la pratica sì, ma non per colpa di Gheddafi. Il motivo è che qui in Libia prevale sempre la mentalità beduina, vale a dire la logica dei clan e delle tribù. È stato questo a minare il cosiddetto stato delle masse. E poi, tutte le volte che Gheddafi ha provato a raddrizzare la situazione, c'erano altre emergenze, l'embargo, l'affare Lockerbie e via dicendo. Non si può dire che il fallimento sia stato totale. Gheddafi è riuscito comunque a cambiare, almeno in parte, la mentalità dei libici. Non quanto lui avrebbe voluto, sia chiaro. E infatti lui stesso l'ha ammesso, dicendo che il suo popolo non era preparato. Io ho sempre detto che quello della Jamahiriya era un sistema politico all'avanguardia, applicato però ad un popolo all'antica, molto, troppo tradizionale. È proprio con l'avvento della Jamahiriya che la parabola di Gheddafi inizia a declinare. È il popolo, il suo popolo, a frenare. E Gheddafi si fa sempre più sordo, paranoico e soprattutto autoritario. Non è più il profeta del deserto, ma un volgare tiranno. Gheddafi è stato deluso a un certo punto da come il popolo libico ha reagito all'attentativo di applicazione delle idee rivoluzionarie gheddafiane alla società libica. Lui voleva che il popolo libico fosse partecipe di una forma di democrazia diretta a cui i libici non erano pronti. Voleva che i libici da commercianti diventassero produttori e questo non è successo in piccola parte. La delusione c'è stata ed ha provocato il tentativo di Gheddafi di imporre le proprie idee. Quello è il personaggio, a mio avviso, più antipatico. È il personaggio vendicativo, il personaggio che dice: io ho degli oppositori che domani potrebbero diventare cruciali per me e quindi è meglio che io li faccia fuori. Io penso che le radici della contestazione del febbraio 2011 abbiano origine nella svolta radicale del 77-79. I primi oppositori di Gheddafi sono i commercianti, cui lui impedisce di fare il proprio lavoro. Lui a un certo punto, nel 1979, abolisce il commercio privato, lo centralizza in centri commerciali e questo crea molto scontento in un popolo che è naturalmente commerciante. Un secondo esempio, espropria le grandi proprietà private, abbatte una intera classe media che si è arricchita sia prima della sua rivoluzione e sia sotto la sua rivoluzione e fa molti scontenti. Molti di questi vanno all'estero come oppositori, saranno raggiunti dalle guardie verdi ed eliminati. Ai problemi interni si aggiunge poi la reputazione ogni giorno peggiore che accompagna Gheddafi sulla scena internazionale. La colpa è di una lunga scia di attentati terroristici in cui la sua ombra è troppo ingombrante per passare inosservata. Per questo il leader libico finisce a metà degli anni Ottanta sotto la presidenza di Ronald Reagan nel mirino degli Stati Uniti, che ne fanno il nemico perfetto. Lui questi colpi li ha fatti perché intendeva dimostrare che lui poteva arrivare dappertutto. Berlino Ovest, 5 aprile 1986. L'attentato alla discoteca La Belle conta 3 morti e centinaia di feriti. La Libia viene accusata dell'attentato. L'America di Ronald Reagan decide di reagire. Ascoltiamo lo storico Angelo Del Boca e Lucio Caracciolo e poi le parole dello stesso Reagan nel discorso del 14 aprile 1986. È lì che è andato un momento Reagan ha cominciato a pensare che bisognava dargli una lezione. Gheddafi e la Libia sono sempre stati un problema per gli americani, che prima è stato appaltato in qualche modo agli inglesi. Poi nel clima della guerra fredda un personaggio erratico come Gheddafi poteva diventare pericoloso per la sicurezza americana, poteva essere manipolato dai sovietici. Gli americani speravano magari con un cambio di regime di installare delle loro basi in Libia e quindi in quel momento l'attacco a Gheddafi, l'attacco mirato proprio alla persona di Gheddafi, poteva avere un senso. Questa sera alle ore 19 le forze aeree e navali degli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro il quartier generale da cui partono le attività sovversive di Muammar Gheddafi a supporto del terrorismo. Gli attacchi si sono concentrati su obiettivi mirati per ridurre le vittime nella popolazione civile libica, contro cui non abbiamo nulla. È una Libia diversa quella che si sveglia la mattina del 15 aprile dell'86 dopo il raid americano. Più patriottica, ma anche più insicura e meno arrogante. Gheddafi è infatti sopravvissuto per miracolo ai missili piovuti su Bab al-Azizia e ha scoperto di non essere il Saladino. Non è stato infatti in grado di sfidare con successo la superpotenza americana. Non gli resta che incassare il colpo e cambiare strategia. Mix 24, la storia. Direi che dopo l'avvertimento di Reagan, comincia a fare dei ragionamenti. Non è più il caso di fare queste guerre che sono inutili e allora prima cerca l'unione degli arabi e poi l'unione degli africani. A Gheddafi era venuto un altro dei suoi sogni, cioè quello che, se vuole, glielo dico in linguaggio un po' popolare, cioè di diventare il re dell'Africa, nel senso di rappresentare, di diventare l'uomo di punta di una progressiva unità africana. E tutto sommato, sotto questo aspetto, è stato molto importante perché è stato uno dei finanziatori dell'Unione Africana. Io non so, i dati precisi non ce li ho, si parla che finanziasse almeno un quarto dell'Unione Africana. Bentornati su Mix 24, era la voce di Romano Prodi, l'avete riconosciuta, stiamo raccontando la storia della Libia. Dopo l'attacco americano nell'86, Gheddafi punta su un nuovo progetto. La svolta africana di Gheddafi è in realtà una delle tante maschere con cui esercita il suo potere. Il problema è che, come Robespierre, nemmeno Gheddafi riesce a rinunciare al terrore. E i 441 morti di un doppio attentato nel cielo di Lockerbie e sul deserto del Tenere rilanciano la sua fama sinistra. Non ci sono prove certe, ma la comunità internazionale non ha più voglia di rischiare. La Libia viene isolata e Gheddafi messo al bando. Sono convinto che i due attentati più importanti, quelli dei due aerei, quello della Scozia e quello del Tenere, siano state un'operazione fatta da Gheddafi o, diciamo, da uno dei suoi uomini, che a mio avviso era Moussa Koussa. Moussa Koussa, quando se n'è scappato, secondo me, perché deve aver avuto la sicurezza da parte degli servizi segreti inglesi che non lo avrebbero toccato, che avrebbero dimenticato, perché sapevano benissimo che non erano quei due personaggi che ha messo in carcere, uno tra l'altro era anche ammalato di cancro. Inizia così per la Libia un decennio buio di sanzioni pesanti che finiscono per colpire la popolazione prima ancora del regime. È un tunnel cui per anni Gheddafi non vede la via d'uscita, finché a salvarlo non interviene l'Italia. È l'Italia, il suo storico nemico, a ricucire i rapporti con Gheddafi e a lavorare nelle varie sedi diplomatiche perché la Libia possa rientrare nella comunità internazionale. Un lavoro lento e difficile, con alti e bassi, che trova il suo sbocco solo nel 2004. Così Romano Prodi, presidente della Commissione europea dal 99 al 2004, e poi Gheddafi in un'intervista del 2006. Bisognava riflettere se era opportuno mantenere un buco nero nel Mediterraneo, perché qual era la mia ossessione? La Libia portava turbamento, drammi, morti e feriti in tutto il Sub-Sahara. Era un elemento di instabilità. Quando capì, con informazioni, con analisi indirette, che era stanco di avere questo ruolo di creatore di tensioni, cominciai a fare un'osservazione. Il suo rientro nella comunità internazionale ha coinciso con la sua rinuncia al programma di armamento nucleare, la bomba atomica. C'è un rapporto fra le due cose? Innanzitutto la Libia non era isolata dal resto del mondo. Aveva un problema soltanto con gli Stati Uniti e con la Gran Bretagna, che hanno imposto alla Libia un embargo che ora è stato tolto. Il contenzioso è stato risolto. Lei ha detto che è stata una decisione coraggiosa la sua di rinunciare al programma nucleare. Perché coraggiosa e non semplicemente giusta? Se dichiari che hai un programma per la costruzione di un'arma nucleare o di armi chimiche, se dichiari questo davanti al mondo, ecco, questo richiede coraggio. Coloro che possiedono queste armi non lo dichiarano, proprio per mancanza di coraggio. A essere corretti, credo che noi abbiamo alla fine sempre appoggiato Gheddafi, a parte il periodo ovviamente immediatamente successivo al colpo di Stato. Alcuni dicono addirittura che l'Italia non avesse visto affatto male nemmeno il colpo di Stato, ma comunque certamente in tutti questi decenni Gheddafi è stato considerato un personaggio strambo, ma alla fine un amico nostro che abbiamo protetto in vari modi. Intanto Gheddafi non rinuncia alle sue manie di grandezza, nemmeno negli anni bui dell'embargo. Lo dimostra l'epopea del grande fiume artificiale, la sua ultima follia: estrarre acqua fossile dalle viscere del deserto, trasformarla in acqua potabile e portarla con giganteschi acquedotti fino alle città della costa. È il 1996 quando l'acqua del deserto arriva a Tripoli. Per Muammar Gheddafi è l'ottava meraviglia del mondo. Così il commento dell'ingegnere Mohamed Adi Ajiji e poi il discorso dello stesso Gheddafi a Bengasi il 29 agosto del 1991. Sì, è un'opera faraonica, ma se è considerata l'ottava meraviglia del mondo non è per questo, quanto per la sua importanza strategica. L'acqua è una risorsa fondamentale e il grande fiume artificiale ha risolto per un bel po' di tempo un problema che assillava il nostro paese. تحت حصار اقتصادي تضربه الامبرياليه. La Libia è riuscita a realizzare quest'opera in condizioni difficili, per via dell'embargo da parte dell'imperialismo, nemico dello sviluppo e nemico dei popoli. Nonostante l'embargo imperialista, siamo riusciti lo stesso. Quest'opera è stata realizzata senza l'aiuto di nessuno, senza prestiti dalle banche internazionali, ma solo con il contributo e il lavoro dei libici tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, tutti gli anni. Per questo li apprezzo, perché hanno fatto tutto da soli. Non è però l'acqua, bensì il petrolio, l'arma segreta di Gheddafi. Da un lato gli consente di viziare e tenere a bada il suo popolo, a cui garantisce un reddito pro capite che non ha eguali nella maggior parte dei paesi arabi. E dall'altro gli offre l'opportunità di fare affari e tessere trame con l'Occidente e soprattutto con l'Italia. È lunga la lista delle partecipazioni azionarie dei fondi sovrani libici. A inaugurarle, nel lontano 1976, è l'accordo con la Fiat. Con un ulteriore colpo di scena, Gheddafi diventa, dopo l'11 settembre, un prezioso alleato contro Bin Laden e il terrorismo. Inoltre, accetta l'idea di riformare la Libia. A chiederlo è soprattutto suo figlio, Saif al-Islam, che avrebbe dovuto essere il suo successore. Ma il tentativo è timido e la Libia resta una dittatura, anche se non ha più i tratti sanguinari dei due decenni precedenti. Così la giornalista Hennas Ahmeda e poi ancora Romano Prodi. Il progetto riformista puntava a una trasformazione radicale sia della società che delle istituzioni che governano la Libia, che sono ancora quelle di 40 anni fa, della rivoluzione del 69. Volevamo una nuova costituzione, maggiore libertà di stampa, una magistratura indipendente, ma c'era bisogno di tempo. La ribellione e poi la guerra hanno fatto saltare tutto. Adesso Gheddafi non c'entra più, ma la Libia, il popolo libico e la Libia ci sono ancora. E il problema di questa relazione con l'Italia, gli interessi non solo economici, ma anche di tanti interessi economici si pone, e credo che siamo abbastanza spiazzati. Riprendere il ruolo che avevamo prima non sarà semplice dopo questa guerra, perché sono cambiati i rapporti di forza. Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.